ad alta voce. Elisabetta Piccolomini legge Akutagawa Ryunosuke. Rashomon. Il sole era al tramonto a Rashomon, la porta dei demoni. Un servo aspettava che la pioggia cessasse. Sotto la tettoia di quella larga porta non c'era che quest'uomo. Soltanto una cavalletta si fermò su una grande colonna scrostata della porta. Dal momento che Rashomon si trovava sulla strada di Suzakuoji, altre persone oltre quest'uomo sarebbero dovute essere là ad aspettare che la pioggia cessasse, ma là non c'era nessuno. Poiché negli ultimi anni a Kyoto si erano susseguiti uno dopo l'altro terremoti, cicloni, incendi, carestia, il degrado della città era enorme. Secondo le antiche cronache, le statue di Buddha ed i loro ornamenti venivano distrutti e i pezzi di legno laccato, argentato e dorato venivano accatastati sulla strada e venduti come legna da ardere. Essendo questa la situazione della città, nessuno si preoccupava di riparare Rashomon, la porta dei demoni. Vi si rifugiavano solo i ladri. Infine, si prese persino l'abitudine di portare dentro l'edificio i cadaveri dei senza parenti e abbandonarli lì, miseramente. Così, dopo il tramonto, per paura, nessuno si avvicinava alla porta. Invece i corvi arrivavano da ogni parte. Durante il giorno volavano in cerchio intorno al tetto dell'edificio, stridendo, e al tramonto si stagliavano come semi di sesamo contro il cielo rosso. I corvi naturalmente venivano per mangiare i cadaveri, ma quel giorno, forse per l'ora tarda, non si vedeva nessun corvo, solo qua e là sulla scalinata dove le erbacce spuntavano dalle fessure tra le pietre si vedevano le macchie bianche dei loro escrementi. Il servo, che indossava un liso kimono di colore blu, stava seduto sull'ultimo dei sette scalini e guardava la pioggia appacatamente, toccandosi un grosso brufolo sulla guancia destra. L'autore poco fa ha scritto: un servo aspettava che la pioggia cessasse, ma il servo non aveva un'idea precisa di cosa fare dopo che la pioggia fosse cessata. In una situazione normale certamente sarebbe tornato nella casa del padrone, ma proprio dal suo padrone era stato scacciato via 4-5 giorni prima. In quell'epoca dunque la città di Kyoto era caduta molto in basso e questo servo, in verità, era stato licenziato anche per colpa di questa decadenza. Perciò, più che un servo aspettava che la pioggia cessasse, l'autore avrebbe dovuto scrivere: un servo, inchiodato dalla pioggia, non sapeva né dove andare né quando si sarebbe mosso. Per di più, il tempo in quel giorno influiva in qualche modo sullo stato d'animo di questo servo dell'epoca Heian. La pioggia, che aveva cominciato a cadere dopo le 4, non dava ancora segno di smettere. Intanto il servo, pensando al giorno dopo e cercando di giungere in qualche modo a una soluzione, passava da un pensiero all'altro, senza però trovare una via d'uscita, mentre incessante gli giungeva il rumore della pioggia sulla strada Suzakuoji. La pioggia arrivava da lontano e avvolgeva Rashomon, la porta dei demoni. Il buio scendeva sempre più fitto e in alto il culmine del tetto sembrava reggere nuvole scure e pesanti. Per risolvere una situazione così disperata non esisteva nessuna scelta. La scelta era se finire sotto un tumulo di terra o finire sulla strada morto per fame e quindi essere portato nell'edificio soprastante la porta e abbandonato come un cane. Il servo, dopo aver pensato e ripensato, finalmente arrivò a una conclusione. Bisogna decidere senza scrupolo, tuttavia esitava. Era convinto della propria idea, ma allo stesso tempo non aveva abbastanza coraggio per accettarne le conseguenze. Diventare un ladro. Il servo starnutì, poi si alzò di malavoglia. A Kyoto, dopo il tramonto, la temperatura si abbassa bruscamente e quella sera faceva un freddo tale da suscitare il desiderio di avvicinarsi al fuoco. Il vento entrava senza esitare tra le due colonne della porta insieme al buio del tramonto. Andò altrove anche la cavalletta che era rimasta sulla colonna laccata. Il servo, seppellendo il collo nel kimono e alzando le spalle, si guardò intorno. Lì, infatti, pensava di passare in qualche modo la notte, se avesse trovato un posto dove poter dormire tranquillamente, lontano dagli sguardi della gente, dal fastidio della pioggia, dal vento. Per fortuna trovò una larga scala, anche questa laccata, che conduceva al locale sopra la porta. In quel locale gli uomini, se c'erano, non potevano essere che cadaveri. Il servo, facendo attenzione che non oscillasse il fodero della spada che portava al fianco, poggiò il piede calzato di un sandalo di paglia sul primo gradino della scala. Passò qualche minuto. Al centro della larga scala l'uomo, rannicchiato come un gatto, trattenendo il fiato, era tutto teso verso l'alto. La luce che veniva di lassù gli illuminava vagamente la guancia destra, dove spuntava tra la barba corta un brufolo rosso e giallo di pus. Da principio si era convinto di trovare lì solo cadaveri. Ma quando provò a salire due o tre gradini, scoprì che qualcuno di sopra accendeva del fuoco e lo portava qua e là. Questo si poteva intuire dalla torbida luce gialla che, spostandosi, si proiettava contro il soffitto tutto coperto di ragnatele. Chi accendeva il fuoco al piano superiore di Rashomon in una notte di pioggia? Certamente un essere strano. Il servo, strisciando come un geco e trattenendo il rumore dei passi, giunse all'ultimo gradino della ripida scala, poi, tenendo il corpo più orizzontale possibile e sporgendo il collo più che poteva, guardò con paura il piano superiore. Vide che nel locale erano stati buttati alcuni cadaveri, proprio secondo la diceria. Ma siccome la luce del fuoco illuminava meno spazio di quanto avesse immaginato, non poteva decifrare il loro numero preciso. Intravide però cadaveri con indumenti e altri senza, cadaveri di uomini e cadaveri di donne. Stavano per terra, dappertutto, bambole di terra, la bocca spalancata e le braccia larghe, tanto da far dubitare che una volta fossero stati vivi. Sulle spalle e sui busti si rifletteva una luce fioca che rendeva ancora più scure le parti basse. Stavano per terra, zitti, muti per l'eternità. Il servo, per il puzzo dei cadaveri, si portò la mano al naso, ma subito quella mano si trovò dimentica di coprire il naso, perché Un'emozione terribile cancellò il senso dell'olfatto. Vide all'improvviso una persona accovacciata tra i cadaveri. Era una vecchia vestita di un kimono rossastro, magra, piccola, con i capelli bianchi, somigliava a una scimmia. Manteneva il fuoco su un tizzone di pino. Guardava da vicino la faccia di un cadavere. A giudicare dai capelli lunghi doveva essere il cadavere di una donna. Il servo, pavido più che curioso, per un attimo si dimenticò persino di respirare e provò la sensazione di sentirsi drizzare i capelli in testa, come si legge nei libri antichi. Ora la vecchietta infilò il tizzone acceso tra le assi lasche del pavimento. Poi portò le mani sul collo del cadavere e cominciò a strappare i lunghi capelli uno per volta, come una mamma scimmia fa quando toglie i pidocchi alla sua scimmietta. Sembrava che i capelli venissero via facilmente. Ogni volta che un capello veniva via, il terrore scemava dal cuore del servo e allo stesso tempo cresceva in lui un vivo odio contro la vecchietta. No, non è giusto dire contro la vecchietta. A ogni istante aumentava in lui l'avversione per tutti i mali. Adesso, se qualcuno gli avesse ricordato quello che aveva pensato prima, mentre si trovava di sotto, quando si trattava di morire di fame o diventare ladro, probabilmente avrebbe scelto di morire di fame senza rammarico alcuno. Nel suo cuore l'odio contro tutti i mali si era acceso forte come il fuoco di quel tizzone. Il servo però non capì perché la vecchietta strappasse i capelli del cadavere, perciò, in teoria, non seppe dare un giudizio né in bene né in male, ma di fatto per lui strappare i capelli da un cadavere al piano superiore di Rashomon in una notte di pioggia era un male imperdonabile. Certo è che il servo adesso dimenticò completamente di fare quanto aveva deciso, cioè diventare ladro. Allora, di colpo saltò dalla scala al piano e si avvicinò a grandi passi alla vecchietta tenendo la mano sull'impugnatura della spada. La vecchietta si spaventò e scattò come una freccia dall'arco. «Dove vai?» gridò il servo parandosi di fronte alla vecchietta che scappava, inciampando nei cadaveri. La vecchietta cercò di oltrepassarlo spingendolo indietro, ma il servo la respinse. I due si affrontarono tra i cadaveri dapprima senza dirsi nulla. Si sapeva fin dall'inizio chi avrebbe vinto. Alla fine il servo le prese il braccio, fatto di ossa e di pelle. Una zampa di gallina. «Cosa facevi? Dillo, altrimenti ti farò parlare io!» Poi la lasciò di colpo e le mise davanti agli occhi la lama lucente della spada sguainata. La vecchietta non disse nulla. Con le braccia tremanti, respirando affannosamente, aprendo gli occhi come se gli uscissero dalle orbite, ella si ostinava a stare zitta, muta! Il servo allora sentì che la morte o la vita di quella vecchia dipendevano esclusivamente dalla propria volontà. Questa sensazione raffreddò l'ardore che si era acceso in lui. Gli rimaneva soltanto una spavalderia serena e la soddisfazione per avere felicemente portato a termine un lavoro. Allora il servo, guardandola dall'alto in basso, le disse con voce un poco addolcita: «Non sono né un poliziotto né un giudice, sono un viaggiatore arrivato a questa porta da poco, perciò non ho nessuna intenzione di legarti o arrestarti. Ma raccontami, che cosa facevi qui a quest'ora?» La vecchietta allargò ancora di più gli occhi già spalancati e con le palpebre rosse fissò il servo con uno sguardo intenso e penetrante, come quello degli uccelli rapaci. Poi, come masticasse qualcosa, mosse le labbra che a causa delle rughe erano quasi tutt'uno col naso. Il collo era sottile, si vedeva il pomo d'Adamo sporgente e sussultante. E in quell'istante le uscì con fatica dalla gola, ma penetrò acuta nell'orecchio del servo, una voce simile allo strillo del corvo: «Con questi capelli, con questi capelli! pensavo di fare una parrucca. Il servo si sentì avvilito dalla risposta tanto banale della vecchietta e nello stesso tempo gli ritornò nel cuore l'odio di prima accompagnato da un freddo disprezzo. Forse la vecchia intuì il suo stato d'animo e tenendo ancora in mano i lunghi capelli strappati dalla testa del cadavere farfugliò qualcosa con la vociaccia questa volta di un rospo. Certo, può essere davvero una colpa strappare i capelli ai morti, ma questi morti, tutti quanti, meritano d'essere trattati così. La donna alla quale strappavo i capelli, per esempio, tagliava serpenti in pezzi di una dozzina di centimetri, li seccava e andava a venderli come pesci secchi. Se non fosse morta di malattia, sarebbe andata a venderli ancora adesso. Io non credo però che questa donna abbia fatto del male. Era costretta a farlo, altrimenti sarebbe morta di fame. Dunque, anche quello che facevo ora io non lo considero un male. Ero costretta, altrimenti morivo di fame. Il servo rinfoderò la spada e con la mano sull'impugnatura ascoltava la storia con distacco. L'altra mano accarezzava il grosso brufolo rosso e giallo di pus. Ma mentre ascoltava, gli cresceva in cuore il coraggio che gli era mancato di sotto. In quel momento non ebbe più dubbio se morire di fame o diventare ladro. Morire di fame era fuori discussione. Nemmeno ci pensava più. «Le cose stanno veramente così», insistette il servo con voce sprezzante quando la vecchietta ebbe finito di raccontare. Poi fece un passo avanti e allontanando improvvisamente la mano dal brufolo afferrò la vecchia per il colletto del kimono e disse come se volesse morderla: «Allora, anche se io ti derubassi non mi odieresti, no? Altrimenti anch'io muoio di fame». D'un tratto il servo strappò il kimono alla vecchietta, poi le diede brusco un calcio e mentre lei cercava di afferrargli le gambe la fece cadere sui cadaveri. Per arrivare all'inizio della scala c'erano soltanto 5 passi. Il servo, tenendo sotto il braccio il kimono rubato, in un attimo prese a scendere la scala ripida che portava nella notte profonda. Poco dopo la vecchia, nuda, si sollevò dai cadaveri sui quali stava come morta, facendo uscire dalla bocca una vocina flebile e gemente. Arrivò all'imbocco della scala guidata dalla luce del fuoco che ancora ardeva. Di lì guardò in basso. I corti capelli bianchi le cascavano sulla fronte. Fuori dal Rashomon, la porta dei demoni, c'era solo la notte, buia. Elisabetta Piccolomini ha letto Akutagawa Ryunosuke, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio, ad alta voce @rai.it.